Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Signore e signori, oggi si fa la storia, alzatevi in piedi ed applaudite, perché Lewis Hamilton vince il Gran Premio dell'Eifel. Lewis Hamilton conquista la vittoria numero 91 in carriera ed eguaglia sua maestà Michael Schumacher. 91 vittorie per Lewis Hamilton. Hey Lewis, what a drive mate, in such difficult conditions, that was just awesome. And Verstappen just pipped us for that fastest lap just by 6/1000ths. Yeah, I see that. They're getting fast, man. We gotta keep pushing. But what a result. Thanks so much. Petrucci c'è, vince! Davanti ad Alex Marquez, capolavoro di Marquez, poi Paul Espargaró con la KTM, Andrea Dovizioso con la Ducati, Joan Zarco, finale qua, attenzione con Quartararo, ancora davanti, c'è un Vignales di mezzo, un inciampo per Mir che esce dietro a questo punto, esce in undicesima posizione con Quartararo che limita i danni. Ce l'avevo quel gesto lì dentro da tantissimo tempo, ma proprio ho detto appena rivinco lo rifaccio e lo devo rifare il prima possibile e mi è proprio uscito dal cuore perché ne ho sentite tante questo periodo, però da ieri ho detto secondo me domani si è asciutto, bagnato, domani lei prova a vincere. Quando ho visto l'acqua sulla griglia ho detto una gara sul bagnato è tosta, però ho detto oggi tanto non ho niente da perdere, ci provo. Io credo, Carlo, che Hamilton si stia annoiando anche lui. Sì. Ma annoiando no, più che altro i grandi campioni fuori classe quando hanno appuntamento con la leggenda non sbagliano mai la tappa più iconica. Non un caso, secondo me, che abbia abbia battezzato questa corsa in casa di Michael Schumacher per affiancarlo. Sì, per arrivare a 91. Sì, però tu fai 91 come Schumacher, entri nella storia, poi magari fra due settimane entrerai direttamente nella leggenda perché farai 92, 93 e andremo avanti. Ed è, insomma, ha risposto come se si rispondesse al cellulare, no? Un impiegato al suo capo. Ma mettiti nei suoi panni, Giovanni. Cioè, 91 corse vuol dire tanto, vuol dire vincere quasi sempre. Poi dici, sì, ok, che figata, ho fatto il record. Beh, però ci sono vittorie che pesano più delle altre. Certo, però sai, se un ascoltatore viene qui in studio a parlare con noi, magari si emoziona un po', è la prima volta. Noi ci veniamo tutti i giorni, ci piace da morire, ci pensiamo, diamo tutto noi stessi, però non è la stessa emozione. Umberto Zappelloni, ciao! Ciao direttore. Allora, l'abbiamo presa larga, ci sono vittorie che pesano più delle altre, ma evidentemente vengono celebrate in un certo modo. Pesa anche quella di Petrucci, poi parleremo della MotoGP, avete sentito, insomma, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo aver vinto a Le Mans. Oggi parliamo di motori, poi parliamo del calcio, di tutto ciò che c'è intorno. Nel GR avete sentito il bollettino aggiornato di oggi sui contagi, c'è il calcio sotto attacco, c'è tutto lo sport di base sotto attacco. Ne parliamo con un virologo dei più noti, Fabrizio Pregliasco, poi la lunga vigilia di Polonia-Italia questa sera ore 20:45, poi il Giro d'Italia e il tennis con Nadal che sta, non è una partita e non è una finale, 6-0, 6-2, 2-2, 0-40 servizio di Djokovic. Secondo me tra un quarto d'ora vanno a fare la doccia a Parigi. Partiamo dalla Formula 1, Umberto Zappelloni, che impressione ti fa Hamilton che diventa con Schumacher il più vincente di sempre? Ce l'aspettavamo, avevamo fatto il punto delle gare, dopo aver visto come sarebbe andata questa stagione, che sono bastate le prime due gare, si era fatto il conto per vedere quando sarebbe arrivato a questo appuntamento, è anche arrivato con qualche gara di ritardo su quelle che erano le previsioni della vigilia, perché poteva vincerle tranquillamente tutte. Credo che sia l'uomo giusto per eguagliare il record di Michael Schumacher, perché hanno molto in comune nel modo di correre, nel modo di fare squadra, nel modo di essere feroci con i compagni di squadra e con gli avversari. Forse Michael è stato un pelino più scorretto certe volte, mentre Hamilton se lo è stato, lo è stato in modo molto più furbo, come dicono i suoi avversari. E comunque è un campione che stava già nella storia, nella leggenda di questo sport, perché sei mondiali non si vincono per caso e il settimo è proprio qui a portata di mano. E come diceva Carlo in apertura, è comunque un campione che quando arriva al bersaglio importante molto difficilmente lo va a sbagliare. Abbiamo visto oggi come Bottas ha sbagliato aprendogli le porte per la vittoria, lui poi non ha più sbagliato nulla, la ripartenza ha dato una frustata che è stata forse la cosa più significativa di un gran premio, per il resto abbastanza noiosetto. Sì, anche se gli si era un po' incasinato alla fine con la safety car lunghissima, sì, però insomma era come scritto il verdetto. Come l'hanno liberato dalla gabbia, ha stampato il record della pista, come dire ragazzi, adesso siete arrivati vicini, c'è la safety car, però sappiate che voi siete tappezzeria alla mia festa oggi. Io credo che quanto al record Umberto, non so se avesse messo la bandierina su casa Schumacher, poi il giovane Schumi che gli consegna il casco del papà, tutto molto sì, bello. Tra l'altro casco Mercedes. Bello, casco Mercedes, cioè, no, ecco. Dovevano dargli un casco Ferrari, io dico perché le vetture le ha fatte solo con la Ferrari, con la Mercedes ha fatto 3 stagioni arrivando sul podio una volta, cioè, vabbè, però c'era lo stesso sponsor. Ma sai, posso dirti una cosa, direttore, ma proprio per questo mi ha sorpreso quel team radio freddissimo, quasi notarile, no, di Hamilton, perché è chiaro che sapevano tutti che sarebbe successo oggi, ma secondo me si erano già preparati 2 settimane fa e si sarebbero ripreparati fra 2 settimane. Tant'è vero che sul podio vanno a consegnargli un casco Mercedes, perché deve essere tutto perfetto dal punto di vista della comunicazione, dello sponsor, certo, e di chi paga. Proprio per questo io veramente mi ha sorpreso sentire Hamilton freddo come posso essere io quando preparo la colazione la mattina. Io non voglio fare un po' più di emozione, poteva starci, però poteva anche fingere, dico. Mi era sembrato un po' più emozionale. Poteva anche fingere, ragazzi, era lì e c'aveva il copione scritto. Ma magari sai com'è Hamilton, però ho la sensazione, non voglio fare lo psicologo delle superstar perché non è certamente il mio ruolo, però credo che tutti questi fuori classe che raggiungono questi primati, di cui poi diventano gelosissimi, si leghino e si affezionino a questi primati dopo, cioè non immediatamente il pensiero è vincere la prossima gara e vincere il prossimo mondiale. Poi col tempo, se oggi vai a dire a Giacomo Agostini ma guarda che adesso magari qualcuno arriva a 15 mondiali e lui si imbestialisce, però dopo accade con il tempo, sì, non so, questa è la mia sensazione. Sul momento no. Allora, casa Ferrari, settimo Leclerc, che ieri ci ha emozionato con il quarto posto nelle prove, oggi si è capito dopo 3 curve che lo spartito era diverso, 11° Sebastian Vettel, che di fatto non si è praticamente mai visto. Io credo, direttore, che comunque andrà ringraziato Leclerc quando poi la Ferrari uscirà dal tunnel per quello che sta provando a fare in questo momento. Assolutamente, perché regala i rari sorrisi di questa stagione alla Ferrari con prestazioni come quella di ieri. Oggi hai ragione, 3 curve e aveva già 15 secondi quasi di distacco. Si è capito che sembrava che avesse una macchina di una cilindrata diversa rispetto alle avversarie. Sta facendo quello che fece un tempo lapo con le felpe col marchio Fiat per tenere vivo il marchio mentre la casa madre non produceva una macchina decente che fosse una. Insomma, lui sta tenendo in alto il marchio Ferrari in un anno in cui va tutto a rotoli, e lo sta facendo con delle prestazioni che dimostrano come la Ferrari abbia scelto bene scegliendo lui, però è ora di dargli una macchina decente non soltanto in qualifica ma anche in gara, gli permetta di fare più di 3 curve vedendo gli avversari lì davanti, non poi vedersi di sfuggire là davanti, imprendibile insomma. Sì, oggi veramente insomma il primo giro è stato umiliante per la Ferrari, io non ho il riscontro cronometrico, credo abbia preso 3-4 secondi da Verstappen, da Hamilton che fa un altro sport. O Bottas. Mentre qualcuno andava nella storia, loro sono rimasti all'inferno e ci rimarranno purtroppo fino a fine anno. Dobbiamo capire, come direbbe Binotto. Dobbiamo capire. Grazie direttore. Ciao Umberto. Buon pomeriggio. Ciao, ciao. Grazie ad Umberto Zappelloni. Allora, 800 24 00 24, numero verde per intervenire fino alle 19, 349 238 6666 per i vostri SMS e WhatsApp, WhatsApp anche vocali. Io vi chiedo di prenotarvi. Parleremo molto anche dei sei giorni che ci aspettano verso il derby di Milano. Oggi l'Inter ha dichiarato la sesta positività, quella di Ashley Young. E vorrei sapere anche che cosa ne pensate voi, se sia giusto che si giochi o no, ammesso che non si arrivi a 10, quindi non possa scattare quella deroga, se sia giusto che il calcio si fermi, che cambi le sue regole, il protocollo. Siamo a una settimana da Juventus-Napoli, mercoledì avremo il verdetto del giudice sportivo. 800 24 00 24, noi ci fermiamo per il traffico, poi andiamo in Francia per la MotoGP. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Eccoci qui, allora MotoGP Alemanna, Danilo Petrucci, Alex Marquez e Paul Espargaró sul podio, il podio più pazzo del mondo, della stagione più pazza della storia recente della MotoGP, perché con Danilo Petrucci siamo al settimo vincitore diverso nelle prime 10 gare di questa stagione, con Alex Marquez siamo, caro Carlo, al 15° uomo diverso sul podio. Sì, stagione assolutamente impossibile da leggere, tutti molto felici che abbia vinto il Petrux, seconda vittoria per lui dopo quella dell'anno scorso al Mugello, è in uscita, lo sappiamo benissimo, la Ducati guiderà KTM l'anno prossimo, in Ducati è tutto piuttosto incasinato, oggi Dovizioso quarto, ma credo tutti questi temi li affronteremo tra poco. Li affrontiamo con Carlo Pernat, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Carlo, ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Che giornata incredibile, Gara bellissima, gara bellissima. Sì, diciamo che la pioggia ha stravolto tutto, perché tutti erano preparati per l'asciutto, si è stravolto tutto quanto, dalle Yamaha favorite al disastro Yamaha. La Ducati poteva anche sull'asciutto fare una gran gara, però il disastro è Yamaha. Ma per tutti, mi spiace per Valentino che probabilmente ha fatto una partenza troppo, era partito molto bene, era una partenza troppo veloce. È la prima curva, quando parti veloce rischi di andare per terra, soprattutto in quelle condizioni. Mi ha un po' deluso, dico la verità, non tanto la Suzuki quanto il pilota della Suzuki, questa volta Rins, perché onestamente come girava, col ritmo che aveva, con le gomme che aveva montate, con la moto che andava bene, molto probabilmente se la sarebbe giocata con Petrucci. Sì, ogni tanto conviene anche restare in pista, no? Se la gara non è finita. Certo. Non è necessario consumare tutto in due curve. E mi dispiace anche Dovizioso, perché francamente, guarda, di Petrucci sono strafelice come Carlo, perché se l'è meritata. Questa volta è stato, dopo la vittoria dell'anno scorso sull'asciutto, vi ricordate a Mugello, questa volta sul bagnato, che è più il suo terreno favorevole, diciamo, no? Questa volta non ha chiesto scusa al compagno di squadra, e finalmente ha capito. Il tuo compagno di squadra è il primo nemico, questo non l'aveva capito l'anno scorso. Sì, ma poi fare giochi di squadra per quale squadra? Dato che non andrà via lui, che è stato esautorato ben presto, andrà via Dovizioso, poi alla fine l'ha anche detto, insomma, io sono, se sono coinvolto do il meglio, altrimenti corro per me stesso. Ma ha ragione, ma questa politica della Ducati è stata una politica purtroppo che non sta pagando, magari pagherà, perché Dovi è giustamente in lotta per il mondiale, però un Dovi di questo genere in lotta per il mondiale ce lo vedo nella misura in cui gli altri fanno flop, perché un Dovizioso così francamente nemmeno 4 anni fa lo vedevo perdente, sembra che se sia lui a mosciare. È chiaro che quel sorpasso, con essersi toccati, può averti creato anche un attimino uno stravolgimento. Sì, però la sua gara è finita lì. Poi in realtà diciamo, l'abbiamo rivisto dopo, quando Zarco l'ha infilato, Olivera l'ha infilato, lì c'è stata la reazione, si è tenuto almeno quel quarto posto aggrappato per le unghie. Ha fatto il minimo sindacale. Allora, Dovizioso è a 18 punti da Quartararo, in mezzo c'è anche Mir che ha 10 punti da Quartararo, Vignales è un punto dietro a Dovizioso, ci sono 4 piloti in 21 punti, ci sono ancora 5 Gran Premi, quindi diciamo 125 punti in palio. La domanda che vi faccio, partendo da Carlo Pernat, è: fino a dove dobbiamo scendere in classifica per considerare un pilota in corsa per un mondiale pazzo senza padroni? Ma sai, io ti dico fino a 40 punti, quindi fino a Miller più o meno. Esatto, guardate un po' Miller, se oggi non avesse avuto un problema tecnico, e attenzione, io adesso non voglio fare il castigatore o il fustigatore, se Miller mi fa un gesto così nel box non lo faccio correre la prossima volta, capisci di cosa voglio dire? Capisco il pilota che un problema tecnico gli abbia elevato anche un podio, però quando entri nel box onestamente mi sembrava di vedere lo Stoner dei vecchi tempi, sì. Non si fa così, però fino a 40 punti io credo che ci sia in ballo ancora tutto, perché se oggi Miller avesse fatto il podio, guarda un po' dove andava. Anche però Morbidelli, ragazzi, anche Morbidelli è dentro allora nei 40 punti. Però guarda, ne hai tanti davanti a Carletto, ne hai talmente tanti davanti che difficile. Ma poi... tu pensavi, Carlo, pensavi che Marquez facesse un podio? Pensavi che Nakagami è l'unico pilota che ha fatto punti? L'unico pilota che ha fatto punti? L'unico? Uh-huh. Guardala un po' in classifica. Nakagami è quinto. Sempre, quinto. Bravissimo, ha sempre finito le gare, l'unico di tutti quanti. L'unico era Dovizioso, che poi era caduto domenica, per cui... Quindi, e Marquez è l'unico anche che ha fatto tutte le gare e le ha finite, Alex, senza fare dei punti delle volte. Quindi, tanto Nakagami, c'ha in testa un sogno, quello di fare il podio. È sempre lì, ragazzi, è sempre... È chiaro che non è un pilota di prima fascia, questo lo voglio dire perché non vorrei essere... capito male. Ma difatti, quando... difatti, perdonami Carlo, non ha una classifica di prima fascia, cioè in una stagione normale 81 punti in 10 gare, tu saresti a metà del gruppone e nemmeno potendo immaginare di poter essere in lizza per il mondiale, invece sei quinto. Ma io sai, infatti io dico non è un pilota di prima fascia e lo ripeto, ma l'altra cosa che mi ha colpito anche oggi è un'altra cosa, Vinales. Ogni volta mi dà una soluzione mentale diversa. Oggi cosa ha fatto? Ha detto non monto l'elettronica per la partenza, cioè parto senza l'elettronica. Cioè, l'altra volta una gomma davanti sbagliata, l'altra volta una gomma posteriore sbagliata, questa volta parti senza elettronica perché sono partito bene nelle prove. E canna sempre. Cioè, fatemi capire, ma il capo tecnico lo dico in battuta, ma deve essere ricoverata la neuro, capo tecnico di Vinales. Fa fatica perché, a stargli dietro. Ma io penso di sì, perché ragazzi, come si fa? Una volta una cosa, una volta un'altra, una volta un'altra. Poi comincia con le dichiarazioni: ah, ma se io parto da metà con vicino le KTM, le Honda e le Ducati, dove vado? Ma come dove vai? Sei un pilota professionista che con una moto che alte Quartararo ha vinto 3 volte. Cioè, quindi, è già perdente di natura, non lo capisco. Io uso una parola imbarazzante, ma non in senso dispregiativo, in senso che mi imbarazza perché non do spiegazioni. Sì, fai fatica a trovare un senso logico. Valentino Rossi si è sdraiato dopo poche curve, terzo 0 di fila. È un peccato, ma insomma l'aveva detto anche lui, il treno era abbondantemente passato. No, io vi voglio chiedere di Fabio Quartararo, che è pur sempre il leader mondiale. La domanda è, ma Fabio Quartararo è un vincente? Perché tutte le volte che deve dare lo strappo, è successo inizio stagione, è successo anche oggi pista, certo, diciamo di casa, comunque in Francia, con l'opportunità di dare uno strappo decisivo al mondiale, arriva nono perché davanti sono caduti in tanti, altrimenti sarebbe arrivato oltre, abbondantemente oltre la decima posizione, salva perché prende 7 punti, quindi salva la classifica, resta lì primo più 10, approfitta del fatto che tanti altri non hanno fatto grandissime gare, però non ti dà l'idea di essere un vincente. Adesso Carlo Perna ti dice che Quartararo soffre la pressione. Ma guarda, io te l'ho già detto in passato e ripeto, è un pilota che ha patito la pressione ed è recidivo ad averla patita. Oggi addirittura si è fatto prendere da Mir, che è andato fuori pista per la faccenda di Valentino, e ha lottato fino in fondo. Quando ha visto Mir lì, si è messo a lottare per cercare di arrivarci davanti. Cioè, io credo che la pressione sia tanta. L'aveva passata con l'asciutto in questo weekend, dico la verità. Chi è che non dava favorito Quartararo? Questa volta è stato sfortunato. Il bagnato ha fregato lui e tutte le Yamaha. Aspettiamo ancora la prossima gara per vedere se ha la pressione o no. Qui come fai a dirlo? Sull'asciutto molto probabilmente avrebbe fatto un garone. Sarebbe stata una gara diversa. Sì, molto diversa. Quindi è difficile oggi dare anche dei giudizi, ragazzi, perché sai, quando fai tutto il weekend sull'asciutto e poi stravolgi la moto e metti le gomme d'acqua, lì poi la sensibilità del pilota che va sul bagnato, conta solo quello. Infatti chi è che è andato avanti? Quelli che sono bagnato normalmente vanno forte, come Rins che ha buttato via un altro gran premio come l'ha fatto l'anno scorso due volte, se vi ricordate, in Olanda, che era in testa. Quindi Rins psicologicamente ha patito il suo compagno di squadra, si è ripreso domenica scorsa e questa volta, che aveva l'occasione per uscire fuori da questo patimento tra virgolette, e ha fatto flop. È dura, e Rins è fuori dai giochi. Inutile che stiamo Rins è fuori da quella, da quell'ampia fascia dei 40 punti che abbiamo declinato prima. Grazie a Carlo. Ciao Carletto. Grazie a Carlo Pernat. Ciao. Grazie, alla prossima, che per la MotoGP è già settimana prossima ad Aragon, e quindi non si ferma la stagione. Ricordo, mancano 5 Gran Premi. Intanto Djokovic è entrato in campo, era sotto 6-0 6-2 nella finale di Parigi contro Nadal, era sotto anche di un break nel terzo set. Adesso siamo 4-3 Djokovic, servizio Nadal 40-15, Nadal che dunque è pienamente padrone del suo destino, ma Djokovic ha fatto il contro break e sta giocando un tennis più accettabile rispetto a quello che abbiamo visto nella prima ora e mezza di una finale che fin qui non c'è stata. Ci fermiamo, 800-24-0024, un minuto di pausa, arriva per Luigi Pardo, apriamo la pagina che racconta il calcio. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Di Insigne sul primo palo, il colpo di testa, il vantaggio dell'Italia, ha segnato Piraghi, primo gol in maglia azzurra di Piraghi, che in piano recupero porta avanti gli azzurri, a terra i polacchi. Le due nazionali, sarà una bella partita, una partita importante, si gioca davanti a 8.000 spettatori, questo ci fa molto piacere, giochiamo in uno stadio bellissimo e questo ci fa ancora più piacere, quindi sarà sicuramente una bella partita. Una strada che il mister ci ha fatto vedere, che noi abbiamo intrapreso avendo fiducia nelle sue conoscenze, nel calcio che voleva attuare. Abbiamo i talenti per poterlo fare, l'esperienza e anche la spensieratezza dei giovani, quindi un mix perfetto che ci ha portato ad essere qui a far rinascere l'orgoglio italiano. Io penso che Ciro, Belotti, Ken, tutti vogliono giocare, non ce n'è uno al quale piace stare in panchina, però noi abbiamo un modulo di gioco che ci ha dato soddisfazione fino ad oggi, quindi finché non variamo qualcosa qualcuno purtroppo deve soffrire. Questa sera gioca la nazionale, ore 20:45 a Danzica, Polonia contro Italia, terza giornata della Nations League, una Nations League che fin qui ci vede in testa nel nostro girone, proprio davanti alla Polonia e all'Olanda, 4 punti l'Italia, 3 punti Polonia e Olanda, quindi quella di questa sera è una partita importante che ha dei contenuti importanti anche dal punto di vista sportivo e agonistico. Intanto Djokovic è 5-4 nel terzo set, ma dovrà servire Nadal, quindi in questo momento c'è parità a livello di break e contro break e c'è finalmente una finale. In questa finale, che nei primi due set è stata una passeggiata per Nadal, 6-0 6-2. Saluto Pierluigi Pardo. Ciao Pier. Ciao. Pier, lo teniamo per pochi minuti perché sta per iniziare la telecronaca di Inghilterra-Belgio. Sì, bella, devo dire molto bella, e ovviamente ascoltando tutti i convocati invito a seguirla sul canale 20 di Mediaset. Insomma, una grande partita perché l'Inghilterra vuole il sorpasso nei confronti del Belgio. Il Belgio fino a questo momento ha avuto un ruolino pazzesco, 7 gol fatti, un gol subito nelle prime due partite con Islanda e Danimarca, mentre l'Inghilterra ha fatto un solo gol tra l'altro sul rigore, quindi ha faticato molto di più, però oggi l'Inghilterra può provare il sorpasso nel girone di Nations League. C'è Lukaku, ovviamente non c'è Mertens per i ben noti motivi, ma c'è Lukaku al centro dell'attacco della squadra belga, c'è tantissima qualità in campo, quindi tante storie e tanto talento in campo, e poi c'è Wembley che insomma, sì, ha sempre il suo fascino. Anche se vuoto, oggi c'è anche Francia-Portogallo a proposito di grandi partite, la Nations League insomma sta proponendo degli incroci non male. La prima domanda è se vedete una nazionale più forte dell'Italia per quello che ci sta facendo vedere. Come gioco, non so, io come valori assoluti, come valori assoluti, sì, ma anche come possibilità di crescita nei prossimi mesi, da qui all'europeo. Io credo che l'Italia sia quella che di squadra gioca meglio tra tutte le varie nazionali. Poi dal punto di vista del talento ce ne sono almeno 3-4 che sono superiori a noi, però abbiamo fatto benissimo a mandare nell'intro di questo segmento quel gol che ha aperto praticamente, lì è nata l'Italia di Mancini, di proprio in Polonia, esatto. Lì, quello è stato l'atto di nascita di questa squadra, e da lì devo dire che di strada ne è stata fatta tantissima. Quella partita è stata una rivoluzione, non so se vi ricordate, noi arrivavamo comunque forse anche un po' con la frustrazione addosso di quello che c'era stato subito prima di Mancini, ma anche l'inizio di Mancini non era stato particolarmente positivo, penso alla sconfitta in Portogallo, insomma eravamo una squadra abbastanza fragile, in difficoltà, e la partita con la Polonia fu veramente la svolta, come un tappo di spumante che vola via, e da quel momento in poi la squadra è migliorata. È vero che ha giocato tantissime partite contro squadre di basso livello, questo è vero, va riconosciuto, ma è anche vero che poi innanzitutto le ha vinte con una forza e con dei punteggi abbastanza significativi, e poi qualche test contro squadre di livello superiore già c'è stato, penso anche ad Amsterdam, al gol di Barella, un'ottima prestazione contro gli olandesi. Oggi chiaramente è un test importantissimo, tra l'altro in uno stadio dove giocammo contro, se non sbaglio, la Spagna negli europei di Polonia e Ucraina, giocammo una buona partita con praticamente alla pari contro la Spagna di 8 anni fa, che era la squadra più forte del mondo in quel momento, e poi ritrovammo in quella finale. Insomma, ci sono mille aspetti secondo me interessanti della sfida di stasera. C'è anche Immobile contro Lewandowski, certo. Adesso io non sono cattivo, quindi non vi chiedo chi è più forte, però tecnicamente noi ci portiamo la scarpa d'oro a sfidare Lewandowski. Io posso anche dirti che Lewandowski probabilmente è più completo, forse anche Immobile ti dice che tu dici che non si offende Lewandowski. Penso che si offenda Ciro, che è un grandissimo giocatore, secondo me un po' sottovalutato, e che quest'anno, e glielo auguro di cuore, però ha senso della misura della realtà. Sì, ha senso della misura, ha senso della realtà. Quest'anno ha anche uno scenario, un contesto che sarà la Champions League, in cui potrà far valere il suo talento, perché la differenza poi al di là di tutto spesso sta nel fatto che uno le occasioni ce l'ha, l'altro non ce l'ha. Al di là del fatto che Immobile qualche occasione internazionale non l'ha sfruttato al meglio, ma Lewandowski è uno che l'anno scorso ha segnato in tutte le partite di Champions League tranne che nella finale. Comunque, appunto, dato che non è tennis, basta guardare il caminetto di Lewandowski e vedere che cosa c'è sopra, per capire, no? Questo qui è uno che ha segnato a tutti i livelli in tutte le più grandi partite che abbiamo visto negli ultimi anni. Sì, non c'è niente di male in tutto questo, insomma, voglio dire, la continuità realizzativa di Immobile negli ultimi anni è oggettiva ed è spaventosa, quindi parliamo veramente di un giocatore di livello importantissimo. Ripeto, secondo me quest'anno avrà con la Champions League una possibilità per far vedere il suo valore, il suo talento. Poi se farà quest'altro salto di qualità oppure no, questo non lo sappiamo, perché è chiaro che l'asticella aumenterà nelle grandi partite contro i grandissimi avversari, non che in Italia non ci siano, però ovviamente la Champions League è un'altra cosa. Però insomma, è già il fatto che ci sia una sfida a pieno titolo Immobile Lewandowski, credo che sia un motivo d'orgoglio. È motivo di farci un titolo e una copertina, così 55 come gol l'anno scorso Lewandowski, non dico perché poi no, è bravino. Il ragazzo è bravino, è promettente. No, dico, così come secondo me resta da copertina, e poi ti salutiamo Pier, il fatto che Immobile, scarpa d'oro, inferiore a Lewandowski, lo abbiamo certificato noi questo pomeriggio, però in realtà si è al centro di un ballottaggio feroce per la titolarità nell'Italia, con Belotti, con lo stesso Caputo, l'ha detto ieri Mancini. Sì, ma abbiamo tre giocatori con caratteristiche diverse, anche qui non è che è una vergogna. No, però se tu hai la scarpa d'oro, secondo me tu la 9 della tua nazionale l'hai battezzata a occhio. Immobile è quello che parte avanti nelle gerarchie, anche perché da questo punto di vista io penso che Mancini sia anche un meritocratico, cioè uno che così come ha dato, ed è molto bello, una possibilità a Ciccio Caputo, ha anche gli occhi per vedere quello che Immobile sta facendo da anni con la maglia della Lazio, che è una squadra che gioca a memoria e gioca per lui, che ha questa capacità di azionarlo e di fargli tirare fuori il meglio con questa intelaiatura, secondo me, praticamente perfetta, Luis Alberto, Vinicius, Savic, Acerbi e appunto Immobile lì davanti. Giocano molto per lui, giocano molto per lui, ma sì, questo è costruita, non è che, per Immobile, non sì, è una brutta cosa, è un merito della Lazio. Quindi io penso che Immobile sia in questo momento il titolare e sia il giocatore più avanti nelle gerarchie. Poi ti ripeto, io penso molto alla Champions, perché quest'anno Immobile avrà una possibilità di fare dei gol che non si contano ma si pesano, no? Si dice delle volte per i voti, che è un po' quello che gli è mancato in carriera, dai, diciamo certo, la verità. Ma anche perché negli ultimi anni comunque ha giocato quasi sempre l'Europa League e ha giocato partite di livello inferiore, le Lewandowski, certo. Grazie Pier, buona partita. Ciao ragazzi, ciao. Grazie per Luigi Pardo. Allora, ci fermiamo intanto 5-5 tra Nadal e Djokovic, terzo set della finale del Roland Garros. Ricordiamo i primi due set 6-0, 6-2 per Nadal, ma adesso è partita vera. Il traffico, torniamo e parliamo di Covid e calcio. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati. Parliamo di calcio e Covid, ma parliamo di sport e Covid in generale. Vi leggo l'Ansa, che è stata battuta un minuto fa. Oggi c'è stato il tema della mascherina per l'attività motoria, obbligatoria e non obbligatoria per l'attività sportiva, ma perché c'era una circolare esplicativa del Viminale e quindi del Ministero dell'Interno. Adesso, un minuto fa, è arrivata una precisazione per cui chi fa footing e jogging non deve mettere la mascherina. La mascherina si mette solo se si cammina. Allora, parliamo di questo e lo facciamo, e lo ringrazio per aver accettato, cioè, il nostro invito, con Fabrizio Pregliasco, che è uno dei virologi più attivi in vista e più preparati, che in questo momento ci aiuta a capire come italiani che cosa sta succedendo. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, c'è un po' di confusione sullo sport e il Covid, poi arriviamo ai protocolli del calcio, però insomma io credo che la gente anche che va a fare la corsetta avrebbe diritto a capire un po' meglio, no, che cosa deve fare e non deve fare. Ma io credo che appunto questa circolare, pur con le difficoltà di una circolare ministeriale che cerca di dare idee generalizzate, vuole in qualche modo differenziare ciò chi fa davvero sport e chi, ce lo ricordiamo un po', ridendo se possibile, nel momento del lockdown, quanti diciamo podisti e quanti runner c'erano in quel momento e che poi si sono ritirati a vita privata nel momento del lockdown. Non per sminuire la cosa, però appunto era la differenza fra chi cammina e chi fa invece sport, perché ovviamente non si può pretendere che un soggetto che corre tenga la mascherina. Anche perché è pericoloso, no? Dà fastidio. Ecco. Fastidio, no, ma rischia anche, credo, di essere pericoloso, insomma, non fa bene se uno non riesce a portare l'ossigeno, diciamo. Soprattutto se poi si organismo. È, come diceva De Luca, no? Quelli che poco sportivi si mettono di brutto senza allenamento, è chiaro che vanno a rischiare un po'. Professore, ma io ho un po' questa impressione, siccome vedremo che cosa succede nelle prossime ore, si parla di chiudere lo sport amatoriale, che poi di fatto significa lo sport di base, intendo lo sport di contatto, si parla del calcetto, ma il basket, insomma tante altre cose che riguardano poi milioni anche di ragazzi. Io, la domanda che faccio è questa, ma è proprio necessario partire dallo sport quando si deve tagliare? Ma, cioè, è così pericoloso, diciamo, lo sport? Sicuramente quei momenti di contatto durante la partita, ma non solo, ci vedo soprattutto il rischio nella fase successiva, perché dopo un gesto atletico più o meno importante abbiamo nelle due ore successive un abbassamento delle difese immunitarie, quindi lo spogliatoio, ammesso che sia possibile fare la doccia, perché in alcuni casi appunto non c'è, ma comunque è un momento davvero in cui insieme, magari si commenta il risultato più o meno animatamente di quello che è capitato, e parlando, urlando, ridendo, come giusto che sia, no? Appassionandosi, dopo, sì. Appassionandosi, è chiaro che è un elemento di rischio e quindi è un peccato, perché mi spiace più per questo che per il professionismo, al di là del professionisti che ovviamente poi hanno... No, perché professore, a noi viene abbastanza male da genitori pensare che possiamo chiudere gli spogliatoi e dire niente doccia, tutti a casa, la fate a casa, però viene male pensare ai nostri figli... Che da privati, domani gli dici... Possiamo fare a meno del calcetto, eventualmente che del tennis, noi grandi, ricreativo, anche se ci divertiamo, del basket... Però per i nostri ragazzi credo sia una cosa davvero molto pesante. Sì, sì, io credo che l'elemento però che c'è come prospettiva di preoccupazione, ma dico preoccupazione nel senso è di un trend positivo, purtroppo di positivi, che inquieta, perché davvero i positivi di oggi sono diversi dai 5.000 di marzo, che erano la quota più rilevante della malattia. Oggi sappiamo che questa malattia, ed è proprio la sua peculiarità e la sua perfidia, causa tantissimi casi banali, quelli gli asintomatici, che non hanno effetti negativi per se stessi, ma sono i facilitatori della catena di contagio. E quindi la paura è che da questi 5.000 e più soggetti che continuano a esserci con trasmissione in famiglia, quindi nei momenti in cui si abbassa la guardia, si arrivi a una esplosione epidemica, un po' come c'è anche, lo vediamo in Inghilterra, in Belgio, dove la situazione è ancora più alta rispetto alla nostra. Quindi è una preoccupazione per poter convivere e mantenere l'operatività negli elementi essenziali, ospedali, lavoro e scuola. Allora, veniamo al calcio. Aggiornamento del bollettino oggi, l'Inter ha un sesto contagiato, è Ashley Young, è stato comunicato oggi. Il Genoa sta aspettando, dovrebbe arrivare a minuti, l'esito del giro di tamponi per vedere se qualcuno è tornato negativo. C'è un altro positivo al Verona, si chiama Günther, tutti negativi i tamponi l'Under 21, tranne quelli che sono stati trattati in Islanda, tutti negativi a 13 giorni da Genoa a Napoli. I tamponi del Napoli, io so che lei nei giorni scorsi ha detto che secondo il suo parere il derby sabato, insomma, si potrebbe anche non giocare. Ma il rischio c'è, perché davvero, oltretutto, a parte perdere l'aspetto sportivo, perché se si stravolge, no, la rosa dei giocatori è più un random risultato, magari qualche nuovo. Sì, però questo è un compromesso che viene accettato in ogni attività umana in questo periodo, non c'è niente di perfetto. Magari qualche giovane viene a essere messo in evidenza, sì. No? Lo dico così in senso generale, no? Ma al di là di queste considerazioni, effettivamente l'elemento è che sempre, ancora in modo più intenso, professionisti che stanno insieme e che magari sono stati un po' disattenti, perché se ne sono visti in giro alcuni che non hanno tenuto un comportamento proprio adeguato, ma su questo credo che siano come sempre una minoranza, così come la minoranza degli italiani che non mette la mascherina. È chiaro che in quello che è l'attività sportiva nel momento, purtroppo anche qui si è abbassata un po' la guardia, si vede che questi giovani esultano, come giusto che sia, quando c'è il gol, ma ancora con i metodi del vecchio Galateo e non di un Galateo che dovrebbe essere molto più... Però mi perdoni, professore, il fatto che il Napoli giochi contro il Genoa praticamente tutto o contagiato o in fase di incubazione, e poi di fatto siamo a 13 giorni, ha avuto due positività anche a bassa carica virale, non significa che in realtà al momento del calcio non è poi così pericoloso? Io credo che appunto intendo in gruppi che sono super controllati, stiamo parlando di professionisti in questo momento. Professionisti. È chiaro che come si è visto, il focolai capitano legati a un singolo soggetto, magari a un super spreader che contagia nei momenti di nelle trasferte in pullman, basta veramente un niente, anche un ottimo protocollo ben gestito non dà il rischio zero e quindi si può determinare queste diffusioni, basta un niente, basta qualcosa che lo vediamo anche in ospedale. No? Però accettando un rischio ragionevole ha senso pensare di poter andare avanti. Ma infatti il punto è quello, cioè protocollo non è perfetto, nulla è perfetto in questo momento, non c'è rischio zero e sarebbe anche... Ma non c'è neanche altrove rischio zero, non c'è neanche questo studio. Ma non si può pretendere, è un'utopia, il rischio zero è un'utopia, però se c'è un protocollo, quello che dico è rispettiamo le regole, quindi se cominciamo a derogare, a fare delle eccezioni, o rivediamo le regole, oppure sì, le rispettiamo e quindi entro quei limiti di totale imperfezione andiamo di conseguenza. Certo, cioè, sì, forse è va aggiornato, ecco, il protocollo forse è stato emanato in una fase dove eravamo più, tra virgolette, ottimisti tutti, invece ora l'autunno-inverno ci mette di fronte a una situazione, diciamo, peggiore, ecco, quindi in questo senso, e la perfidia del virus, cioè ora rispetto a giugno, quando è stato emanato il protocollo, abbiamo più la contezza di questi famosi, come dicevo, asintomatici, che sono la fregatura rispetto alla possibilità di diffondere la malattia in modo del tutto incongruo. E come dicevo, ci capita in famiglia, perché in famiglia, no, non è che stiamo con la mascherina in casa, magari in un appartamento non grosso, con stessi servizi e quant'altro. Professore, abbiamo 30 secondi, le chiedo la sintesi. Le leggo che cosa ha detto oggi il ministro degli esteri Di Maio. Grazie all'accordo con Oxford University, entro fine anno avremo le prime dosi del vaccino. Dobbiamo superare, diciamo, quella fase, dall'inizio dell'anno prossimo inizieremo le vaccinazioni. Possiamo veramente essere così ottimisti, sì, perché sarebbe un grande risultato? Io credo di sì, assolutamente sì. Quindi è vicino il vaccino? Direi di sì, ci vorrà un po' di tempo per averlo in modo generalizzato, però... Ci siamo. Grazie, professor Pregliasco. È caduta la linea, lo ringraziamo. Comunque siamo riusciti ad arrivare in fondo alla nostra chiacchierata. È arrivato in fondo anche Nadal, ha vinto Roland Garros 6-0, 6-2, 7-5. Aveva fatto il break nell'undicesimo gioco con servizio Djokovic e poi ha chiuso col 7-5 in 2 ore e 41 minuti. Nadal che arriva a quota 20 vittorie negli Slam come un certo Roger Federer. Ne parliamo nel finale di trasmissione con Vincenzo Martucci. Ci fermiamo, il GR delle 18, poi torniamo qui. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Sono convinto del fatto che ad oggi sicuramente il protocollo in vigore sia ancora un protocollo, il protocollo giusto da tenere, da adottare, che va chiaramente rispettato da tutti con il massimo rigore. Un post su Instagram di Zlatan Ibrahimovic è stato pubblicato pochi minuti fa, prima su Twitter e poi ripostato su Instagram. Guarda, io ti leggo testuale il suo messaggio. Lui ha scritto: sei guarito, autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita, puoi uscire. È arrivato l'esito dei tamponi eseguiti questa mattina al gruppo squadra. Gruppo squadra tutto negativo, una bella notizia per quel che riguarda ovviamente il Napoli. C'è da processare ancora un tampone di un membro dello staff sanitario, però insomma speriamo che sia negativo, evidentemente anche questo, ma intanto insomma continua un trend decisamente incoraggiante per quel che riguarda i controlli sui giocatori del Napoli. L'aereo charter che porterà l'under 21, il gruppo dei negativi ai tamponi che sono stati effettuati a Reykjavik in Islanda, e partirà intorno alle 18:30, arriveranno a Pisa, atterreranno a Pisa, saranno portati al ritiro, che è la casa dell'under 21 a Tirrenia, e lì saranno fatti altri tamponi, poi si prenderanno le misure necessarie per il prosieguo, fra cui anche va presa in considerazione l'altra partita che si deve giocare a Pisa per le qualificazioni del campionato europeo di categoria nella giornata di martedì. La parola più dolce di questo periodo è negativo. Vuoi fare un regalo a uno? Negativo. Negativo. Che di sé non è una bellissima parola. No, però negativo, negativo. Allora, 800 24 00 24, abbiamo ancora un'ora di diretta insieme, quindi prenotatevi per intervenire. Saluto Benoît Coé. Ciao Benoît. Ciao Benoît. Ciao a tutti. Allora, sei giorni a un derby in cui la parola negativo questa settimana ha baciato in fronte il Milan, negativo Ibrahimovic, non l'Inter. I positivi, lo abbiamo detto prima, sono saliti a 6, si è aggiunto Ashley Young a Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu. Mi dici da interista come cominci a vivere questa lunga vigilia? Noi siamo in un momento complicato perché sta arrivando comunque un ottimo inizio di stagione, poi adesso il derby era una cosa sappiamo tutti che è molto importante, è una partita anche all'inizio di questo campionato che arriva presto, ma dove contano anche le punte, ma conta anche le dinamiche, le vittorie. Dunque è chiaro che con questo Covid tutte le squadre devono stare attento, e sicuramente su questo punto di vista l'Inter non è messo benissimo, visto che adesso sono sei, sì, e con gli altri, tra l'altro, qualcuno in nazionale, gli altri presenti in isolamento ad Appiano Gentile. Io non so come si faccia a preparare una partita così, ti chiedo per esperienza tua. Già è complicato durante le soste, così? Beh, è complicato sì, perché già con le nazionali i giocatori partono e non sa come tornano, perché spesso ci sono impegni importanti e è difficile valutare veramente la parte fisica come tornano. Adesso con questa cosa qua è complicato, perché ogni giorno magari un giocatore che tu pensi poter metterlo in campo alla fine magari all'ultimo salta, e la cosa è prevedere quello che puoi prevedere. Poi sappiamo che su questo punto di vista tutti, non solo l'Inter, ma tutti sono su questo punto di vista a disagio, perché è ancora di più l'allenatore. Sì, certo, sono tutti a disagio, così come siamo a disagio noi, ma non la cosa che secondo me è inaccettabile è oggi mettere in discussione che si giochi questa partita a rebus sixtantibus, cioè così come stanno le cose, perché o viene modificato il protocollo in questa settimana oppure ci si attiene al protocollo e si va in campo così come si deve andare in campo. È chiaro che dal punto di vista agonistico Benoit, il rientro di Ibrahimovic unito all'indisponibilità di tutta la difesa di Conte o quasi, ecco che quella è una situazione, sarò perverso, ma intrigante. È un mismatch. Sì, su questo punto di vista posso essere che sono d'accordo, perché già è complicato, ma è questo sistema come è messo, queste regole che sono messe, che alla fine non si è capito bene chi dovrebbe saltare la partita, non giocarla, dove essere inviato, vabbè, insomma. Secondo il protocollo, questo è il protocollo, alla fine si dovrebbe giocare, ma alla fine c'è qualcuno che la salta. Uh-huh. Vabbè, insomma, deve essere chiaro un po' su questo punto di vista, anche se si troviamo in questa situazione lì. Io dico che non si... perché lì adesso sono solo sei, ma se domani sono otto, sono nove, cioè questo, perché alla fine sappiamo com'è, cioè non è che lo fanno tutti, possono prendere in 5 minuti, passare da 6 a 8-9 in poco tempo. Dunque, su questo punto di vista, alla fine preparare questa gara e giocarla senza la vera forza che hai, non lo so, però non mi sembra una cosa coerente. Allora, ricordiamo le regole. La norma che si è data qualche giorno fa alla Lega è che tu puoi chiedere una volta nell'arco della stagione di non giocare, perché si gioca se tu hai almeno 13 disponibili tra tutti quelli che hanno una maglia, un numero maglia assegnato, di cui almeno un portiere. Puoi chiedere la deroga se nell'arco di 7 giorni continuativi di calendario hai 10 o più giocatori positivi. In questo momento l'Inter è a quota 6. La prima possibilità, quella di Bastoni, è stata comunicata dall'Inter il 7 ottobre, probabilmente risale al 6. E quindi diciamo in questo momento non ci sono i termini perché l'Inter possa, a norma di regolamento attuale, chiedere di giocare il jolly e quindi di poter rinviare la partita. Io credo per il momento, certo, diciamo che se nei prossimi 2 o 3 giorni arrivano altre 4 positività, ricadiamo dentro la norma che si è data la Lega, che si è dato il calcio italiano. Io credo che ci vorrà grande maturità, Benoit, nel gestire questo derby, nel gestire la prossima giornata di calcio, che ha anche il problema del Genoa, che ad oggi ha tutti i giocatori ancora positivi e quel jolly l'ha giocato. Ci vorrà grande maturità, quella forse che non c'è stata settimana scorsa, e vedremo mercoledì che cosa decide il giudice sportivo su Juventus-Napoli. Però questo è un mio parere, non so cosa pensi tu, che la grande maturità si misurerà anche nell'atteggiamento dei club, anche di capire che magari vanno incontro a partite condizionate, ma che forse vanno giocate per evitare che si fermi tutto. Su questo punto di vista è quello che vogliamo fare, ma quello che era... Sì, questa è questa regola che mettiamo è fatto per tutelare la salute di tutti. Questa è una regola, dunque da questo punto di vista la regola vale, nel senso che sì, non sono a 100%, non c'è tutti i giocatori, che non c'è questo, giustamente questa situazione dove giustamente tutte le club sono penalizzate, giocare è giusto non giocarla, è giusto non giocarla. Adesso dici tu, e penso anch'io, il buon senso vale che sì, sono 6, sono 10, non si gioca, giustamente, perché... Quindi tu non lo giocheresti il derby in queste anche in queste condizioni, senza pensare ad arrivare a 10, lì c'è la norma. Ma io dico, mi scusa, sì, sto parlando di effettivo di squadre che sono oggi, che sono, vuol dire, più o meno 20, cioè si ha già 80%, 40% della rosa, sono tutti giocatori che devono giocare. Cioè, che derby sarà giustamente con un giocatore che magari non sono dei titolari, anche se alla fine sono tutti dei titolari, per dire, per modo di dire, ma non è la vera valore della forza che hai, perché il vero valore sono i tuoi 11 che sono capaci giustamente, e con una forza poi tu hai sempre 13, 14, 15, 16, ma io dico, se tu non hai dei tuoi migliori giocatori, perché purtroppo ci sono 10 giocatori che sono fuori, quasi una squadra, è giusto giocare. È giusto rinviarla. Grazie Benoit. Ciao Benny. Prego. Ciao. Intanto la televisione rilancia le immagini del primo allenamento di Ibrahimovic, da guarito dal Covid. Milan che continua comunque ad avere Duarte e Gabbia, che sono tuttora positivi. Ci fermiamo, continuiamo a parlare di questo tema, ma torniamo anche sulla nazionale. Questa sera ore 20:45 ad Anzica, Polonia-Italia, con 8.000 spettatori. Ne erano ammessi fino a 10.000, ma da quello che arriva dalla Polonia non sono riusciti gli uomini della federazione polacca a vendere tutti i biglietti, quindi ci saranno circa 8.000 spettatori ad Anzica per questo Polonia-Italia. Lo faremo con Alessandro Alciato di Sky. Ci fermiamo, il traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24, fra qualche minuto gli ascoltatori che si sono prenotati. Alessandro Alciato, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Ci fai un po' il punto di che cosa sta succedendo in questo weekend di lavoro in attesa di Polonia-Italia sul fronte Covid? Beh, intanto si fa la conta, che è brutto dirlo, malati di Covid dell'Inter, dei calciatori positivi, perché al momento siamo a 6 e, come sappiamo, dopo il caso Genoa c'è stata messa ed è stata varata la regola secondo cui con almeno 10 positivi nel corso di una settimana, quindi della stessa settimana, una squadra può chiedere il rinvio della partita. Quindi insomma siamo al punto in cui bisogna fare il conteggio dei positivi, e l'Inter nella settimana che porterà il derby entra con dei calciatori positivi. Questa è la situazione che viene tenuta sotto controllo maggiormente. Poi all'inizio della prossima settimana, martedì, ci sarà un'assemblea di Lega in cui si parlerà di altro, forse soprattutto di altro, ma ovviamente si dovrà tornare poi su questa vicenda per capire come andare avanti, anche perché ad esempio il responsabile medico della Lega di Serie A, che è il medico del Bologna, il dottor Nanni, insomma, in questi ultimi giorni ha fatto delle dichiarazioni importanti in cui dice che la Lega e le squadre di Serie A vanno in un certo senso preservate, se l'ha presa un po' con le ASL. Quindi diciamo che c'è molto da aspettare, e soprattutto c'è da capire cosa deciderà il giudice sportivo a proposito di Juventus-Napoli, la non partita che non si è giocata, con la Juventus in campo e il Napoli rimasto nella propria città, in casa. Diciamo che ci sono tante cose e sono tanti pezzi di un puzzle, e ci sono tanti incastri possibili. Da questi incastri capiremo come andrà avanti la stagione, se andrà avanti, ma al momento direi che va avanti, e come finirà, cioè se finirà con i playoff, con la formula attuale o cosa verrà inventato. Diciamo che sono giorni molto molto molto caldi questi. Ma da quello che ti risulta al momento attuale, la linea Maginot del calcio, e quindi parlo dei suoi vertici, della federazione, della Lega, è che il protocollo è questo, va applicato e dentro questo protocollo vanno prese le decisioni. Quindi, per intenderci, se l'Inter non arriva a 10 entro un paio di giorni, il derby si gioca. A oggi è così, il protocollo viene sostanzialmente considerato sacro, le parole di Gravina di pochi giorni fa lo hanno certificato ancora una volta, dicendo che insomma il protocollo va applicato. È chiaro anche che, mi sembra abbastanza chiaro ormai, che al protocollo dovranno essere apportate alcune migliorie legate al momento, perché il protocollo è nato, che ha funzionato, e fino alla situazione Genoa, bisogna dire la verità, ha funzionato. E ha funzionato anche molto bene. Questo protocollo è nato per portare a termine una stagione, adesso invece c'è una stagione che è appena iniziata, sì, che deve essere portata a termine, ma in realtà che deve iniziare, perché siamo all'inizio del campionato. Però sì, il protocollo resta la stella polare in questo momento, che... così. Che iniziano anche le coppe, che sono un altro fattore non da poco, però il problema è, il protocollo va rispettato, è in dubbio, poi non bisogna, a questo punto secondo me è sbagliato fare dei distinguo, cioè non possiamo dire però l'Inter potrebbe anche avanzare dei dubbi sulla legittimità di, anche sportiva, di giocare il derby magari con 8 contagiati, però se lo rinviamo forse è meglio, non va così, cioè secondo me grande senso di responsabilità dei club in questo momento, ma nell'interesse di tutti, per rispettare le regole che ci sono oggi. Se poi le cambiamo nel corso della settimana, rispetteremo quelle nuove partorite nel corso della settimana. Però mettere in discussione adesso lo svolgimento del derby, secondo me, è una cosa sbagliata. No, secondo me è in discussione, o meglio, non secondo me, è in discussione nel momento in cui, e io non auguro che succeda questo, ovviamente, nel caso in cui positivi oggi 6 diventino 10, perché questo prevedono le regole, certo. Esatto, perché altrimenti il Genoa cosa potrebbe dire? Certo. Ma in quel caso c'è una regola, il bonus annuale, esatto. Assolutamente, esatto. C'è una regola, se l'Inter va a 10 positivi potrà chiedere il rinvio del derby, punto. Ma altre considerazioni, neanche di opportunità, neanche di regolarità dei giochi, altre considerazioni secondo me non hanno in questo momento diritto di cittadinanza. Ale, che cosa dobbiamo attenderci dalla nazionale questa sera, Polonia-Italia ore 20:45 a Danzica? Qual è la notizia che deve uscire o che speriamo che esca? Allora, intanto ce n'è una di formazione, diciamo così, perché nel tridente d'attacco della nazionale non giocherà Ken e giocherà Pellegrini, quindi saranno Pellegrini, Immobile e Chiesa i tre titolari là davanti. Dico che è una notizia perché fino ad oggi c'era il ballottaggio, c'erano due maglie per tre giocatori, il terzo era proprio Ken, e Ken questa sera non giocherà, gli altri due erano Pellegrini e Chiesa, ovviamente Immobile non si tocca perché è il centravanti di questa nazionale. Quale novità? In realtà bisogna capire se la nazionale, ma mi sembra che ci siano tutti i presupposti perché accada, riuscirà a mantenere il livello di gioco che comunque nel tempo ha mantenuto e ha costruito, se riuscirà a tenere la continuità. E poi mi sembra di capire che da una parte ci sia una federazione che giustamente abbia una gran voglia di arrivare prima a questa Nations League, anche per un motivo di opportunità, perché se l'Italia arriva prima nel proprio girone, la Final Four verrà ospitata da Torino e da Milano, quindi la Final Four di Nations League. Dall'altra parte c'è un Mancini che ovviamente ha voglia di arrivare primo nel girone, quindi di vincere questo, il suo gruppo, e di giocarsi le finali in casa, ma dall'altra parte comunque vede in questa Nations League un'opportunità per continuare ad affinare le armi della sua nazionale prima dell'Europeo, che poi non si è giocato. Mancini l'aveva detto chiaramente, la Nations League la utilizzo per fare esperimenti e per capire quale possa essere la squadra migliore. Adesso il gruppo della nazionale è sostanzialmente fatto, credo che insomma Mancini, non dico che farà degli esperimenti perché non è più tempo di esperimenti, ma comunque utilizzerà queste partite per mettere alla prova, magari a partita in corso, alcuni giocatori che possono eventualmente entrare in pianta stabile nel gruppo. Mi viene in mente un nome in particolare, quello di Caputo, che fino a un mese fa non faceva parte di questa nazionale e di cui adesso Mancini parla un gran bene, potrebbe davvero alla fine trovare un posto fra i 23 dell'Europeo. Sì, sarebbe una storia bellissima. Grazie Alessandro Alciato. Ciao Ale, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Questa sera ore 20:45, dunque Polonia-Italia. Michelangelo dalla provincia di Vicenza. Michelangelo? Allora andiamo Aldo. Ad Aldo da Pisa. Aldo. Sì, buonasera. Intanto cerchiamo di recuperare Michelangelo. Prego Aldo. Buonasera, chiedo scusa per il disturbo, ma no, a me sembra che l'ingordigia non premia mai. Voglio dire, il sistema calcio di fronte a un'emergenza come questa potrebbe anche non eccedere nel calendario. Ad esempio, già la Nations League secondo me poteva non farsi, e vabbè, ormai è cominciata e bisogna andare avanti. Ma in Italia secondo me basta che per un anno, che non muore nessuno, non si fa la Coppa Italia. Abbiamo 5 spazi di calendario in più perché sono 5 partite per le grandi e quindi tanti problemi verrebbero risolti. Possibile che bisogna per forza intasare il calendario e quindi poi non avere mai lo spazio per recuperare. Vale anche un po' per le amichevoli delle nazionali, cioè l'idea che si potesse immaginare di rinunciare a qualcosa, sì, io sì. In parte la condivido, anche se poi capisco che anche la Coppa Italia ha i contratti firmati, anche la Nations League per la UEFA e così via, però il ragionamento non è sbagliato. No, non è sbagliato il ragionamento, anche il fatto che l'UEFA, come se niente fosse, ha programmato le coppe con un formato totalmente identico rispetto al passato, senza possibilità di deroghe, ecco, questo mi sembra abbastanza rischioso. Michelangelo, provincia di Vicenza. Sì, pronto. Vai, ecco, ti sentiamo. Qua. Buonasera, anzi, grazie. Buona. Niente, io un attimo spostare il problema sull'altro sport, perché si parla sempre di calcio, no? E poi io sono sportivo, mi piacciono tutti gli sport, non è che voglio fare una cosa. No, ma noi col professor Pregliasco siamo partiti dal footing, dal jogging. Io parlo soprattutto di pallavolo, di sport e pallavolo, sì. E soprattutto di rugby. Perché il rugby, ho sentito oggi la Benetton ha giocato, cioè uno sport così non è che non si abbracciano, anzi si baciano. Sport di contatto per eccellenza. Sì, esatto, anche nella pallavolo non sono due squadre che vanno a contatto, però c'è un abbraccio a ogni punto. Ho detto, non si parla mai di questi sport, devo dire, ma è tutto tranquillo oppure non so, non si dice. Questo voglio capire. Tutto tranquillo, no, Michelangelo. Ne abbiamo parlato per una primavera con tanti dei protagonisti quando c'era da rimettere in moto tutto. Sì, infatti. È chiaro che anche per questi sport, chiamiamoli di contatto, così come il calcio, come il basket e come tutti, come la gran parte, diciamo la verità, delle discipline sportive che conosciamo, bisogna fare un compromesso, il rischio zero non esiste, bisogna scrivere dei protocolli rigidi, è stato fatto, e questo regola l'attività dei grandi, quelli che lo fanno per lavoro, anche se non tutti sono professionisti, e poi c'è l'attività di base di milioni di ragazzi, di milioni di persone, ed è da lì che siamo partiti, cioè da quest'idea un po' malsana, secondo noi, che lo sport sia sempre l'anello debole da cui partire se si deve tagliare o l'ultimo da rimettere in moto, che è un po' quello che abbiamo paura stia succedendo anche in questo frangente. Il professor Pregliasco ci ha dato le sue spiegazioni, però l'argine dello sport è tutto insieme, non è solo il calcio di Serie A. No, mi dà fastidio, come se fosse un sacrificio accettabile, no? Il primo dei sacrifici accettabili da fare, vabbè, non si gioca più, i ragazzi non fanno più sport. Il calcio perché è come la movida. O il basket è come la movida, o la pallavolo è come la movida, non è così. Ci fermiamo, Var Anatomy. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Var Anatomy con Luca Marelli. Questa famosa registrazione c'era o non c'era? Pecoraro ha richiesto tutta la audioregistrazione della partita, l'intera partita di Inter-Juventus, che è una cosa che non esiste, cioè non c'è proprio, non viene fatta, non è una cosa neanche mai in possesso di nessuno. Le uniche cose in possesso della partita in questione erano quelle che riguardavano le situazioni di rigore, le situazioni da rosso, eccetera. Allora, questa è stata la settimana del caso Orsato Bis, a 2 anni e mezzo di distanza. Saluto Luca Marelli. Ciao Luca. Ciao a tutti. Allora, facciamo un rapido Var Anatomy. Oggi non c'è da parlare di episodi di campo, e ci concentriamo sulla comunicazione, che è un tema di cui io e Luca parliamo molto spesso. Abbiamo visto il servizio delle Iene con Rizzoli, il designatore, che ha ribadito che non vengono fatte le registrazioni, che chiaramente non è quello che succede, semplicemente non c'è quel pezzo, ma era già stato spiegato a suo tempo, perché poi quello che resta agli atti è il momento in cui si attiva il VAR. Ognuno può farsi l'idea, esatto, che vuole, però dal punto di vista comunicativo è un autogol rispondere che non viene registrato e vengono registrate soltanto le fasi poi interessanti, perché chiaramente è intuitivo per chiunque capire che non è una cosa che si possa fare, perché non è che uno prevede che cosa succederà in campo. Allora Luca, perché non riescono gli arbitri a comunicare in maniera corretta? Perché, come abbiamo detto tante volte, l'associazione è rimasta al Medioevo, a livello comunicativo, rimasta agli anni 90, e in questi 30 anni è successo molto, ci sono i social, c'è la comunicazione di massa ed è necessario comunque cominciare ad aprirsi verso l'esterno. In questo senso arriviamo, credo, al punto della giornata. È molto importante il ruolo, che è passato un po' sotto traccia perché non fa polemiche, non fa notizia, il nuovo ruolo che è stato assunto da Gianluca Rocchi, che dopo aver concluso la sua attività è stato incaricato dal presidente della FIGC Gravina di un ruolo importantissimo, di cui abbiamo parlato tanto spesso io e te, è vero Giovanni, cioè quello di cominciare a mettere in rapporto il mondo arbitrale con la società e i mass media. Il ruolo di Gianluca sarà sostanzialmente quello di incontrare in una prima fase le società. Posso dirvi che ha già incontrato la Lazio 10 giorni fa circa, sono in programma altri incontri, il programma è quello di incontrare tutte le società di Serie A e Serie B e poi di essere una sorta di raccordo comunicativo tra la Cana e B, tra la Lega e la federazione, in maniera tale che eventuali problemi comunicativi di interpretazione delle regole possano essere chiariti da una persona che ricopre questo ruolo. Fondamentale, lo ripeto, che questo incarico sia stato affidato a Rocchi dalla federazione, cioè l'AIA ha semplicemente preso atto di questo ruolo affidato a Rocchi. Fondamentale, perché ciò significa che è la federazione che ha preso l'iniziativa di cominciare un percorso comunicativo che è fondamentale. Sì, perché poi nel dibattito di tutti i giorni, che può anche essere impostato male, però è anche una delle basi su cui si fonda la grande popolarità del calcio, bisogna stare attenti ai dettagli. Mi viene in mente il designatore, certo, che dice cambia l'interpretazione dei falli di mano in area di rigore, non ci sarà mai più un rigore come quello di Juventus-Atalanta dell'anno scorso. Ecco, io avrei fatto un miliardo di esempi e c'erano, tranne citare, certo, quello. Poi arriva la seconda giornata, no? Luca Bonucci tocca la palla dentro l'area di rigore con la Sampdoria e chiaramente per una settimana si discute del perché, insomma, e tutto il resto che abbiamo sentito. Avevi già detto lui tutti in premessa, no? Cioè che il mondo del calcio è rimasto agli anni 90, cioè a tre ere geologiche fa, e che adesso bisogna comunicare in modo professionale, il senso mi sembra questo. Esattamente, ma infatti quello che è importante è che anche in questa comunicazione si pongano delle basi concrete, cioè non bisogna mai citare episodi che possano essere oggetto di polemiche, certo, a prescindere, cioè sulla base di fazioni, perché alla fine quello che bisogna evitare è di cominciare a non dividersi più in una guerra tra bande, perché altrimenti non si arriverà mai a nulla. Ecco, questo è fondamentale. E lo dico chiaramente, io ho sempre difeso Ritoli perché è una delle persone più intelligenti che abbia mai conosciuto. Però in questo caso sulla vicenda Ossato e sui calci di rigore ha sbagliato completamente la linea comunicativa, perché non ha fatto una bella figura alle Iene. È vero che era molto invasivo il tipo di intervista, sappiamo come lavorano le Iene, però una persona, un manager che ha un suo stipendio, che ha una sua comunque figura professionale, doveva semplicemente fermarsi, spiegare una volta per tutte in modo chiaro quello che è successo. È molto semplice poi, tra l'altro, da spiegare. Tutto viene registrato, poi Okai prende in carico le registrazioni, taglia le parti che non sono interessanti, cioè quelle mute, le gira all'IFAB, l'IFAB poi le può girare alle federazioni nel caso in cui ne abbiano bisogno per motivi didattici oppure per quello che è successo con Pecoraro. Tutto qua. Non era molto complicatissimo, dire che non viene fatta la registrazione chiaramente ti espone a mille critiche, è un errore comunicativo, anche a mille dietrologie, perché poi è insostenibile come posizione. Grazie Luca. Ciao Luca, a presto. A voi, buon lavoro. Ciao. Grazie a Luca Marelli. Settimana prossima ancora 18:35 l'appuntamento con Var Anatomy. Vediamo la volata, perché vediamo la volata Fulsang... e soprattutto quanto balla, perché Fulsang e Kelderman prendono almeno 15 secondi, li prendono tutti su Vincenzo. Attenzione perché va bene. No, per io Bilbao è lì davanti. Un po' affaticata la maglia rosa, però. Si poteva forse usare qualcosa di più per fare la selezione. Arriva Maika con Conrad, arriva anche Pozzovivo. Attenzione perché perde un bel po'. Una ventina di secondi. Nibali, sì. Guarda come cura. Arriva adesso Peyo Bilbao con Vincenzo. Zakarin, eccolo qua Almeida che salva comunque la maglia rosa. Ti ricordi Carlo cosa ci ha detto settimana scorsa più o meno a quest'ora il nostro Pieragusto Staggi? Cosa delle tenete d'occhio Joao Almeida, giovane portoghese che viene al giro e ci farà vedere cose belle. Di fatto chiude la prima settimana in maglia rosa, anche se oggi ha sofferto. È il giro dei portoghesi, perché a Roccaraso nel tappone appenninico ha vinto Ruben Guerreiro. Saluto ancora Pier Augusto Staggi, ciao Pier. Ciao Giovanni, ciao Carlo. Ciao. Allora, la notizia del giorno però sono quei 14 secondi, credo, no? Sia stati alla fine, che Nibali ha pagato a Fuglsang. Che cosa vogliono dire? Ma vogliono dire che vabbè, questo traguardo non era propriamente adatto a Vincenzo, lo sappiamo, i traguardi in salita brevi, un po' all'insù, da scattisti, lui in volata lento, non ce n'è, se facciamo la volata noi tre, probabilmente Vincenzo potrebbe anche guardarci le spalle. Detto questo, non è un buon segnale, ma non è un buon segnale neanche per Fulsang, non è un buon segnale per Kelton, ma non è un buon segnale per nessuno. Guardate cosa vi dico, una settimana fa avevo detto, ok ragazzi, la sorpresa è Joao Almeida, e ti ringrazio che l'hai ricordato, io vi dico, questo giro rischia di vincere Joao Almeida. Ma a maggior ragione, perché? Perché ci sono due grandi punti di domanda a questo giro a ottobre, l'abbiamo detto, l'abbiamo tutto ormai più volte, cioè è condizionato dalla pandemia, dal Covid, dal contagio in aumento, e quindi punto di domanda, riusciamo a fare la terza settimana? Vegni chiaramente è stato chiarissimo ieri, ha detto noi vogliamo arrivare a Milano, però è un punto di domanda, noi vogliamo arrivare a Milano, bisogna vedere se riusciamo ad arrivare. Beh, anche lì, anche lì ci sono dei protocolli, si rispettano i protocolli e a Milano ci arrivano quelli che riescono ad arrivare, cioè non credo che sia... che non si possono neanche modificare i protocolli in corsa. Quindi. Sì, io la penso assolutamente come ha detto il direttore del Giro d'Italia, comunque ci sono degli enti superiori che possono dire no ragazzi, è stata un'emergenza, ci si ferma. Questo è comunque non è da secondo punto di domanda, che invece è quello più vero, che è dato dalla terza settimana, di questo ottobre inoltrato, tre vette importantissime per questo giro d'Italia, sì. Quindi condizioni meteo, e che sono date da Stelvio, Colle dell'Agnello, Isoar, c'è neve, tanta neve, fa molto freddo, quindi riusciranno i corridori, uno, a scalare queste montagne, due, ad avere quelle condizioni, perché ormai ci sono anche dei protocolli per troppo caldo e troppo freddo, se ci sono delle condizioni di eccessivo gelo possono non andare su quelle allora, in questo momento allora, Pier, sul passo dello Stelvio ci sono 7 gradi sotto zero, ripeto, 7 gradi sotto zero, e quindi ve lo dico già adesso, le condizioni meteo non sono c'è proprio un protocollo, si fa fatica a sciare a 7 gradi sotto zero, il punto è quello, ma poi tu puoi, Pier, tu puoi anche salire sullo Stelvio a 7 gradi sotto zero alle 2 pomeriggio, poi devi scendere però con la maglietta a 80 all'ora. Il problema non è la salita, in salita a 7 gradi, a meno 7 si suda, a meno 7 si suda anche in salita, a meno 7. Il problema è che è la difesa, che diventa estremamente pericolosa, no? E quindi, grande punto di domanda, chi gioca a favore di Joao Almeida, che lì, questo è dei secondi di vantaggio. In più cos'ha questa, la prossima settimana? È una settimana difficile, piena di tranelli, ma non impossibile per un corridore giovane, capace, talentuoso come il Joao Almeida. Il sabato prossimo c'è una cronometro di 34 km con Emiliano Valdoppiadre, dove Joao Almeida può mettere al sicuro una maglia che che diventerebbe pesantissima, perché poi una terza settimana dove è tutto da decifrare, quella cronometro potrebbe essere fatale, se non decisiva. Quindi tradotto, il giro potrebbe nella realtà durare due settimane, magari tirare poi fino a Milano la terza, però la terza decapitata, potrebbe decapitata una terza settimana decapitato, comunque abbassata, giocando un po', possiamo dire, il giro sarà lungo e alto, questo è l'interrogativo, lungo, quindi 3400, sarà lungo esattamente come da programma, e sarà alto, avrà la cima Cucchi a 2750 metri dello Stelvio. Questo non possiamo dare una risposta a noi, però un dubbio ce l'abbiamo, a meno 7 oggi, e guardate che due ore fa quando abbiamo guardato era meno 6, perché adesso è vero che sono le 7 di sera, quindi diciamo è sceso il sole e a quelle altezze fa freddo, ma anche a metà pomeriggio, ora giro, eravamo più o meno sulla stessa temperatura. Grazie Pier Augusto. Ciao Pier. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao. Grazie Pier Augusto Stagi. L'ultimo traffico, poi ci precipitiamo a Parigi, dove Nadal ha fatto numero 20 come vittoria dello Slam, ha raggiunto Federer, ha fatto numero 100 come vittoria a Roland Garros, ha raggiunto se stesso. Nadal è praticamente una leggenda. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati. Con un ace chiude Rafael Nadal. Questa mattina scriveva sull'Equipe, chiudeva il suo articolo Julien Reboulet con la terra è color ocra, la pallina è rotonda e Nadal in finale. Beh, potrà aggiornarlo domani con e Nadal vince Roland Garros. È stato un capolavoro tattico quello di Nadal, ha tolto tutte le certezze a Djokovic dalla parte del rovescio, è stato perfetto. Non è neanche una gran notizia che Nadal vinca una finale a Roland Garros. Prima di oggi ne aveva giocate 12 in carriera e le aveva vinte tutte, quindi oggi ha fatto 13. Se ci fosse ancora il Totocalcio, sì, avrebbe portato a casa dei bei soldini, li ha portati a casa ugualmente. Se così dico, l'anno prossimo fa 14. Vabbè, può essere, dopo averlo visto prendere a schiaffi letteralmente Djokovic 6-0, 6-2, 7-5 in 2 ore e 41. Vincenzo Martucci, ciao. Ciao Ivo. Buonasera. Allora, dobbiamo chiedere il rimborso del biglietto per non aver visto una finale degna di questo nome, o c'è un significato in questa supremazia di Nadal oggi? Ma io sono molto sconcertato, obiettivamente non avrei mai pensato che potesse finire in questo modo, almeno nei primi due set, non credevo che potesse battere Nadal Djokovic 3-7-0 così, non dopo questo torneo, non in queste condizioni, con la palla diversa, con i rimbalzi meno alti, col freddo, addirittura indoor. Quindi prima cosa questa. Seconda, secondo me Nadal ha giocato benissimo, una partita perfetta, assolutamente cinica, come ha giocato con Sinner nei momenti decisivi del match, a fine primo set e a metà del secondo. Ma sono convinto anche che Nole avesse qualcosa che non andava, che è cominciata dal fisico, ha cominciato piano perché secondo me ha problemi alla palla e al collo, e quindi ha cominciato a servire piano, rimetteva la palla, cercava di allungare lo scambio che un po' non è da lui in certi frangenti, e poi dopo probabilmente è diventata una cosa psicologica, perché l'altro è salito, gli chiudeva qualsiasi spazio, non gli regalava niente, e quindi è finita in questo modo. Onore a sicuramente a Rafa, però qualche dubbio su qualcosa che sia successo a Djokovic ce l'ho. Sì, tu dicevi all'inizio del torneo, me lo ricordo, che per Nadal forse sarebbe stato più difficile rispetto ad altre volte, perché clima difficile, pioggia, palle pesanti, terreno pesante, però al di là di questo io una spiegazione più esoterica ce l'ho oggi con Hamilton che eguaglia Schumacher, abbiamo Nadal che eguaglia Roger Federer e fa questo record, e ti dico di più, stanotte LeBron James vince l'anello NBA ed è la domenica dei mostri. Spiegazione più esoterica. Hai disegnato una prima pagina di un quotidiano sportivo ideale domani. Io penso che questa cosa dei 20 slam poi da domani si riaprirà l'ennesimo discorso sul famoso GOAT, no? Cioè sì, che grande tennista occidentale. Io ve la dico subito la mia idea, io credo che nella vita, se dobbiamo calcolare che il più bravo è quello che guadagna più soldi, se il più bravo è quello che guadagna più titoli dello slam, eccetera, abbiamo finito. Cioè non è quello. Secondo me sono dei simboli. Per esempio, per me, la più grande tennista di tutti i tempi era ed è e rimane Martina Navratilova, perché secondo me ha cambiato certe cose, nessuno più ha giocato come lei. Al numero uno dei tennisti è finito John McEnroe, che ha vinto 10.000 volte meno di Roger Federer. Roger Federer però è la sublimazione del gioco del tennis. E questi grandi giocatori, grandissimo giocatore Nadal, che non me ne vogliano i nadaliani, che non me ne voglia il dio dello sport, è un grandissimo atleta. Ma 12 di questi titoli li ha vinti nello stesso, anzi oggi 13 di questi titoli li ha vinti nello stesso posto, che non è male, diciamo. No, è una cosa irripetibile, straordinaria, fantastica, ma è un po' come Margaret Court, no? Che la maggior parte dei suoi titoli, per il suo record di 24 slam, li ha vinti in Australia. Lei è ancora peggio, perché in Australia, per gran parte di questi non ci andavano poi tutti quanti, quindi anche lì sì, era un tennis diverso. Di più i 23 di Serena Williams, i 24 di Margaret. Io un sospetto ce l'ho, credo, i 23 di Serena Williams, che credo non farà mai 24 in vita sua, perché a questo punto è una maledizione. No, l'altra riflessione che mi veniva in mente vedendo oggi Nadal prendere a schiaffoni Djokovic è che comunque contro quel marziano lì, alla fine, Schwartzman dopo, ma il nostro Jannik Sinner, e questo ci interessa, in campo invece ci sono stati. Sì, sì, infatti questa vittoria netta, nettissima, di marziano, io ho scritto un libro, oddio, voi vedete, questo parla sempre di suoi libri, però l'ho chiamato L'extraterrestre, che secondo me fotografa un po' i progressi di questo giocatore che nasceva solo terraiolo, ma che ha dimostrato anche oggi, anche in condizioni appunto difficili in cui non poteva fare solo quello che fa di solito sulla terra rossa, ha dimostrato di aver fatto dei progressi mostruosi nel servizio, nel rovescio, nel colpo in avanzamento, ha fatto veramente delle cose mostruose, e questo vale ancora di più la prova di Sinner, che obiettivamente se mette dentro una palla corta e una volée probabilmente strappa il primo set, e lì la partita può anche cambiare, forse non vince, ma comunque mette veramente in difficoltà Nadal, che da fondo non sapeva più che fare, anche perché mentre Djokovic lo conosce benissimo, di Sinner sa pochino. Eh sì, quell'altro si è trovato davanti uno che non conosceva. Grazie Vincenzo. Ciao Vincenzo. Arrivederci. Ciao. Ciao, grazie Vincenzo Martucci. Siamo arrivati in fondo. Per gli amanti del genere, 1-1 il primo tempo tra Inghilterra e Belgio, ha segnato Lukaku su rigore, ha pareggiato Rashford su calcio di rigore, dunque 1-1 nella partita che si sta giocando a Wembley e che è la partita più interessante di questo pomeriggio. Poi questa sera ci sarà un'altra gara molto interessante, oltre ovviamente a quella che vede l'Italia opposta alla Polonia. E stiamo parlando di Francia-Portogallo, 0-0 al finale del primo tempo tra Bosnia e Olanda, che è l'altra partita del nostro girone. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Valeria Bernardi e Paolo Corleone che si sono alternati in regia. Domani dopo il GR delle 14 torna Carlo Genta con tutti i convocati. Io invece vi aspetto domenica prossima alle 17. Ciao! Ciao! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao Radio 24. Saluti. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso. Su aruba.it